213. Castagnole seconda. Eccovi una seconda ricetta di castagnole. Provatele tutte e due ed attenetevi a quella che più vi garba. Uova numero 2, acqua 2 cucchiaiate, fumetto 2 cucchiaiate, burro grammi 20, zucchero grammi 20, un pizzico di sale. Mettete in un vaso i rossi d'uovo, lo zucchero, il fumetto, l'acqua e il sale. Mescolate, montate le chiare e con questi ingredienti e il burro intridete tanta farina sulla spianatoia da formare un pastone che si possa lavorare con le mani. Dimenatelo molto perché si affini, poi fatene delle pallottole grosse quanto una piccola noce e friggetele come le antecedenti a fuoco lento e in molto unto.